later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, Kappa e Drago discutono di accenti renani. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. È tedesco, basta dubitare. Vabbè, chi dubita, sarà tedesco, però il significato ci sfugge. Però scusa, ma i polli non tentano mai la fuga? La fuga? Da qui dentro? Ma come fanno? Ma non vedi che questo è un carcere speciale? Qui è come Guantanamo, come le carceri turche, dove infatti prolifera l'aviaria proprio perché notoriamente le carceri turche ospitano uomini e polli nelle stesse strutture. Notoriamente. Ziareti uncesinde, Guantanamo usinde, tutsa clara, papilan muamilei, elestiren getirdi, sure rec. Uomini e polli. Uomini e polli. Uomini e polli, questo è un bel titolo, altro che uomini e topi. Steinbeck non era un appassionato di uccelli come Himmler, si vede. Eccolo Himmler, anche se a me sembra piuttosto Ralph Hütter dei Kraftwerk. No, Ralph Hütter è questo. Ich bin ein riesiger elektrischer Generator. Ma è uguale. Dice anche più o meno le stesse cose. Questo dice generator. No, Drago, ti sbagli. La voce della fabbrica di polli non ha l'accento di Düsseldorf, no, ma di Monaco. E Himmler era di Monaco, ricordi? Heinrich Himmler nacque a Monaco il 7 ottobre 1900 da una solida famiglia borghese. No, ma non può avere accenti la voce robotica. Ma come no? Ma dai, hai mai sentito un robot siciliano? O romano? Ecco, Franco Frattini, ad esempio, l'ex ministro degli esteri, che notoriamente era un robot, non aveva l'accento de roba. È, onorevoli colleghi, una vera e propria corsa contro il tempo. Contro tempo. Invece i polli hanno l'accento. Infatti il pollo in sbattimento ha l'accento milanese. La fabbrica di polli. E io ho cominciato a frequentare una pollastrella che con l'accento inglese. No, ma è carina, molto sofisticata, no? Dovresti conoscerla. No, ma Drago, avevi detto che avresti smesso di fare questa cosa. Ma qualche amica che per te. Ma no, le amiche, Drago, devi lasciare perdere le pollastrelle. Lo sai poi come va a finire. Sai inglesi, sai. Poi ti buttano addosso i piatti. Io sono anglofilo e quindi. Ti buttano addosso la teiera. Hello, I'm a high class chick. Le mie origini sono, come dire, nobili. Voi repubblicani, cattolici, meridionali, che credete nei santi e nel provolone e in tutta una serie di leggende veramente buffe, non avete purtroppo alcuna idea di quel che vuol dire nobiltà. Io vengo dal pollaio del principe Carlo. Proprio lui, Prince Charles. Sapete, Charles è un grande appassionato di uccelli, come Himmler, e ama tantissimo le galline. Io ho avuto la fortuna di nascere nel pollaio di una tenuta secondaria della famiglia reale, nel sud dell'Inghilterra, in Sussex. Prima mi chiamavo Lady C, Lady Chicken, ma dopo la deportazione sono solo un numero. 308-877. Non avete idea dello stress da cambio di nome. Pensate, prima ero abituata a sentirmi chiamare Lady C. Lady C. Adesso non mi chiamano nemmeno più. Solo un numero. 308-877. Sono chiusa in 15 centimetri quadrati di spazio. What's that in inches? Sto anche dimenticandomi le care vecchie British traditions. Però voi siete molto ospitali e non posso affatto lamentarmi della compagnia. Migliaia e migliaia di rumorose galline italiane, dotate di una sensualità a noi estranea. Ma ditemi un po', come fate voi meridionali ad essere così tremendamente sexy? A mezzanotte sotto il mio balcone, a Milano in via Monte Asolo, ogni sera ci sono due che si amano, una è un trans e l'altro è il macchino. Sul cofano si amano. Comunque, se riuscissero a scappare qui i polli da questa fabbrica. Ma è inutile che tentino la fuga qui, è inutile, stanno anche abbastanza bene. Ma questo lo dici paroxetina, tu. Paroxetina, mangime. Bastasse la paroxetina. La rende tutti felici, dai. Ma come, Drago? È un'industria. Vabbè, ma i numeri sono. L'industria soffre. And the animals suffer. Soffre. Soffre. E chi è che si lamenterebbe? L'amministratore delegato, lo sai bene. Sì, però, K, saremo noi che dovremmo scappare, dai, non possiamo rimanere qui. Ma perché non rimanete? Impiegatevi qua. Che lavoro ci fa fare? Vorremmo cominciare a prendere la paroxetina anche noi. Non lo so, dovete cominciare dal basso, dovete cominciare dal basso. Però, insomma, se voi. Se io capisco che mi posso fidare, state ai livelli più bassi qualche giorno, poi ci penso io a farvi crescere. Sapete fare qualcosa? Non fa niente. Sapete l'inglese? Ma no, fa niente, non importa, vi facciamo fare dei corsi. Cosa sapete fare? Sapete cantare? Ma io un po' canto, sì. Lui sì, anche, sì. Possiamo tu, farti sentire qualcosa. Ho avuto poi dei problemi alle corde vocali. E adesso come stai? Insomma. Perché non provi con la paroxetina? La vita è dura, ti fa paura. Alla mattina, paroxetina. Inibitore, selettivo della ricaptazione. La serotonina paroxetina. I'm afraid you've been having a bad dream. Essere chicks in Inghilterra non è come essere chicks in America. Sono due concetti diversi, completamente diversi. Vediamo. How can I explain? Una chick inglese è una gallinella britannica, pallida, col becco irregolare, il petto piatto, le cosce così cos'ha, e una grande tradizione alle spalle. Una chick americana è una gallinona abbronzata, super nutrita, con il becco rifatto, il petto rifatto, le cosce rifatte e una grande ignoranza dentro. You understand? In the middle of nowhere. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli. Good night, ladies and gentlemen. Good night. Barnumen.